È con noi il fotografo Andrea Pistolesi per parlare della sua mostra Mari alla Suite Hotel Nettuno di Sestri Levante a partire dal 5 aprile. È organizzata dalla Società Italiana dei Viaggiatori, uno degli eventi del Festival del Viaggio. Andrea, benvenuto, ben ritrovato. Grazie. Allora, ci racconti di questo nuovo lavoro? Guarda, è un'idea nata quasi all'improvviso e stavo alla ricerca nel mio archivio di immagini che ovviamente facevano parte di lavori precedenti e fatti in molti anni naturalmente, una selezione tra moltissime immagini. Praticamente la ricerca è stata quella di immagini che fossero evocative e allo stesso tempo dessero un messaggio abbastanza preciso del soggetto in questione, il mare appunto, sia sotto il profilo ambientale principalmente, ma anche culturale. Alla fine abbiamo optato, essendo il numero di immagini abbastanza piccolo, stiamo parlando solo di 20 immagini. Abbiamo optato per delle immagini che fossero più evocative che non reportagistiche sostanzialmente ed è stata una ricerca nata, devo dire, nel giro di un paio di mesi, ma anche molto interessante perché mi ha dato l'occasione per andare a frugare in un archivio molto ampio e devo dire che ho riscoperto posti, situazioni, ambienti che peraltro amo particolarmente. Senti Andrea, per quanto riguarda le località, da quanti luoghi e che arco temporale coprono? Dunque, le località sono circa poco meno di 20, come ti dicevo, la mostra ha sostanzialmente palinsesto di 20 immagini. Quindi la selezione è stata molto, molto stretta Sì. alla fine e sinceramente non c'è stata la volontà di diversificare molto le località quanto le situazioni per dare un'immagine. La mia percezione ovviamente del mare come ambiente, però diciamo che abbiamo immagini che vanno dalla Norvegia all'Irlanda fino al Cile, fino all'Estremo Oriente, quindi c'è un po' tutto il mondo sostanzialmente rappresentato, ma non è stato questo il punto più importante, diciamo. Senti, in quale arco temporale? Direi che escluso forse uno scatto che è molto più vecchio che amavo perché ho un peschereccio in pesta fatto più di 20 anni fa, direi che tutto il resto è stato fatto negli ultimi 10 anni più o meno. Okay. Senti, la caratteristica principale, quale potrebbe essere? La bellezza dei luoghi? Anche la rappresentatività, sì, cioè, ovviamente la bellezza è anche il cogliere le situazioni. Per me il mare vuol dire fondamentalmente, essendo probabilmente io un terragnolo, rappresenta molto la costa, il confine tra terra e mare. Per me il mare è più quello che non essere in alto mare o scene di mare puro. Per me il mare è proprio la bellezza dell'incontro tra terra e mare, quindi scogliere, ma anche porti, spiagge, il mare vissuto anche in senso balneare, ma principalmente quello che mi interessava era proprio questo incontro fra terra e mare, laddove il mare comincia sostanzialmente. Andrea, che durata avrà la mostra? Circa un mese e mezzo, non è stata ancora stabilita una fine della mostra, che io sappia, e quindi credo che per almeno un mese sarà lì, un mese e mezzo circa. Ok. Senti, ci puoi anche anticipare qualcosa su progetti ai quali stai lavorando? lavorando, ho rimesso mano finalmente al mio progetto delle ultime frontiere, di cui questo potrebbe far benissimo parte, e che è sostanzialmente un progetto destinato non tanto alle frontiere in senso politico, naturalmente, ma a quelle zone del mondo non ancora toccate in maniera pesante, ovviamente, dalla globalizzazione e dalla iperconnettività, quindi quelle zone dove c'è ancora voglia di starsene da soli e di cercare ambienti che sia sotto il profilo naturalistico, ma ancora più sotto il profilo umano, siano un po' lontani dalla nostra, diciamo, la civiltà. Quindi continui a viaggiare comunque. Beh, sì. Posso, continuo. Senti, per chi volesse saperne di più, ci lasci tutti i tuoi riferimenti internet? Sì, direi che il modo migliore per avere informazioni sulla mostra è comunque il sito del Festival del Viaggio. Sì. Sul tuo lavoro in generale? Ho diversi siti a seconda delle cose, c'è pistolesifoto.com per i lavori editoriali, andreapistolesi.org per le stampe, lì ci sono anche tutte le fotografie della mostra stessa, oppure andreapistolesi.com che è il mio sito portfolio sostanzialmente. Perfetto. Andrea, è sempre un piacere, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Ti ringrazio. Grazie. Ciao.